Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Puntata dedicata a chi non ce la fa o pensa di non farcela, a chi non è del tutto convinto ma ci sta pensando, a chi ci ha provato e ha ricominciato e a chi non ci pensa neppure lontanamente. Buongiorno cari amici da Nicoletta, la vita, lo sappiamo, ci lancia molte sfide. Smettere di fumare è una di queste. È difficile, ma per chi accetta di misurarsi le soddisfazioni sono tante. 800 24 00 24, lancio subito un appello a chi ce l'ha fatta. Diteci che cosa vi è costato di più e che cosa vi ha ripagato e dato la forza per continuare. Intanto saluto il dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, dove dirige il centro antifumo qua a Milano. Buongiorno dottor Boffi, bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Una puntata per provare a così confrontarci su questa sfida che è davvero impegnativa, ma la posta in gioco è davvero alta. Sì, non è la prima volta che ci incontriamo per affrontare questo importante argomento. È difficile trovare forse delle nuove motivazioni da suggerire ai nostri radioascoltatori, però ci proveremo anche oggi. Lei vuole sapere qualche cosa in particolare dei nostri ascoltatori? Beh sì, perché noi vogliamo fare una comunità. Certo, un quarto dei fumatori dichiara alle indagini Istat Doxa di non volere smettere di fumare. Questo naturalmente è un libero arbitrio, ci mancherebbe. Però quello che mi piacerebbe sapere è le motivazioni principali che portano questi fumatori a dire no, non è il momento, no, io adesso voglio continuare a fumare. Perché questa è una cosa che a volte capisco, a volte no, però comunque imparo sempre, dico sempre dai miei fumatori, quindi chi lo sa, magari insieme riusciamo a scardinare questi magari preconcetti che possiamo avere. C'è chi smette da solo, chi si fa aiutare dai farmaci, dagli aghi, dai libri, dalla fidanzata, chi prova con l'ipnosi, chi con i cerottini e chi smette online e diventa, dottor Boffi, irresistibile. Se siete interessati sentite, poi collegatevi, perché la Commissione europea ha presentato la seconda fase della campagna antitabacco. Gli ex fumatori sono irresistibili, della Commissione europea. Oltre 500.000 cittadini europei hanno già dato prova del loro sostegno all'iniziativa accedendo alle pagine appunto dedicate sui social media. In linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Testori Coggi, che è direttore generale per la salute e i consumatori della Commissione europea. Dottoressa, buongiorno, è un piacere averla con noi. Buongiorno, mi interessa molto poter parlare della mia campagna, quindi grazie per avermi invitato. Una campagna positiva, e sottolineo questo aggettivo, che mira più ai vantaggi dello smettere che ai rischi del continuare. Sì, perché dunque noi abbiamo con i nostri psicologi studiato questo gruppo di giovani, che sono i giovani tra i 25 e i 35 anni, giovani che hanno fumato perché quando si è, diciamo, dei ragazzi l'ambiente circostante ci condiziona molto, quindi noi vediamo che nei ragazzi, nei giovani 15 anni, 16 anni, il tasso di gente che inizia a fumare è altissimo, è in crescita, questo è anche molto preoccupante, è in crescita. Più tardi nella vita, cioè verso i 25 anni, le persone possono essere più recettive per un messaggio sullo smettere di fumare. Quindi abbiamo voluto spingere, grazie ai nostri anche psicologi, questo messaggio di dire: se voi oggi smettete potete fare tantissime cose, potete diventare dei maratoneti, potete correre, potete avere bambini senza problema, vi sentirete meglio, spenderete meno, non puzzate di fumo. Quindi tutta diciamo questo come ho detto messaggio positivo della potenzialità di chi smette di fumare. È una campagna, come lei ha anticipato, pensata per aiutare i giovani tra i 25 e i 34 anni, ma che non si rivolge soltanto a chi desidera lasciarsi il fumo alle spalle, ma anche a chi al momento non ci pensa ancora. Sì, perché la campagna, diciamo, si basa innanzitutto su degli spot, sulla scelta, ecco un'altra cosa interessante, noi abbiamo scelto 27 giovani che sono i nostri ambasciatori, che sono giovani, diciamo, assolutamente normali e che hanno smesso di fumare e che raccontano al pubblico perché hanno smesso. Per esempio il giovane italiano, un certo Davide, che ha smesso perché si è fidanzato, non voleva che la sua fidanzata avesse un uomo accanto che puzzasse di fumo. Voleva essere più in forma, voleva poter correre e anche avere più soldi. Quindi questi 27 ambasciatori raccontano la loro storia e dicono perché hanno smesso. ma lo strumento, diciamo, più importante della campagna è questo, si chiama e-coach, cioè è un training elettronico, quindi uno entra nel sistema, diciamo, entra nel computer, si iscrive. E chi si iscrive può essere sia chi vuole smettere, ma anche chi non vuole smettere. Infatti ci sono cinque fasi. Ci sono infatti cinque fasi che sono: io voglio smettere ma non riesco, ho appena smesso e non voglio ricominciare, oppure anche non intendo smettere. Certo. E le persone vengono seguite, diciamo, con messaggi, con consigli, con partecipando a dei forum di discussione, sempre via web. Dottoressa, al momento in quanti ce la stanno facendo? Dunque, e al momento in Italia abbiamo, che risposte abbiamo? 52.000 giovani e non giovani che si sono iscritti. Siamo circa l'Italia è la terza, quindi il terzo paese, e dai studi che abbiamo fatto, in genere un terzo delle persone che si iscrivono alla fine riescono a smettere. Vogliamo, quindi, allora, dottoressa Testori, dare il sito per dire ai nostri ascoltatori, se vogliono provare anche a smettere facendosi aiutare da questa piattaforma online assolutamente gratuita, un bel progetto che ci lega, no? Un progetto europeo per cui ci possiamo confrontare anche con ragazzi di altri paesi. Il sito è www. Il sito è ex smokers, vuol dire gli ex fumatori. Punto. E i siti sono in tutte le lingue, cioè c'è un sito specializzato per ogni paese, exsmokers.eu, c'è un sito specializzato per ogni paese, quindi l'italiano troverà il sito in italiano, adattato alla realtà italiana, ma diciamo la campagna è una campagna paneuropea. Certo, dottoressa Testori, la invito ad andare ad ascoltare nelle puntate precedenti di Essere Benessere, quando con il dottor Boffi abbiamo nel lontano 2006, dottor Boffi, fatto una sorta di reality, abbiamo seguito proprio settimanalmente il dottor Boffi e io in diretta insieme alla comunità di Essere Benessere, due ascoltatrici che avevano proprio deciso di farsi accompagnare in questo percorso, e come spesso succede, io lo credo fermamente, con il dottor Boffi abbiamo lavorato molto insieme agli ascoltatori, è la comunità che sostiene. Dottor Boffi, assolutamente, questa comunità, mi complimento per questa lodevole iniziativa, questa comunità. Noi cerchiamo di formarla anche possibilmente prima, già dalle scuole medie e quelle superiori. Proprio ieri sono partiti concretamente i primi incontri, laboratori didattici con i medici esperti per insegnare ai ragazzi la prevenzione del tabagismo, oltre all'educazione alimentare e ambientale, per un nostro nuovo progetto fatto dell'Istituto dei Tumori insieme al Ministero della Pubblica Istruzione e all'Associazione Chiama Milano, che si chiama La Scuola della Salute. Sono percorsi formativi su fumo, alimentazione e ambiente per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, perché la prevenzione naturalmente deve già partire nelle scuole. Dottoressa Testori Coggi, la ringrazio per essere stata con noi. Grazie mille, e voglio anch'io, diciamo, anche noi lavoriamo sulla prevenzione. Chiaro che è meglio evitare che i giovani incomincino a fumare. Purtroppo però noi vediamo che, come ho detto prima, il tasso di chi comincia a fumare è sempre più elevato, certo. Quindi bisogna assolutamente aiutare la gente a smettere di fumare. E mi voglio correggere, scusate, nel ex smokers non c'è il trattino, quindi no. Ex smokers, tutta una parola, sì. .eu. Grazie alla dottoressa Testori Coggi per essere stata con noi, buona giornata. E io vado, grazie, buongiorno. Io vado a Pavia perché all'800 24 00 24 ci ha chiamato Carolina. Carolina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti, sì, dunque, lei? Sì, io volevo portare la mia testimonianza perché è anche molto attinente con la trasmissione, perché era luglio 2009, questo me lo ricordo benissimo, ma non mi ricordo il giorno. Ero in macchina con la sigaretta accesa e c'era la sua trasmissione che parlava di fumo, smettere di fumare. Sì. E io ho tirato giù il finestrino e ho buttato la sigaretta e ho smesso di fumare. Carolina, ma lei diventa altro. La dottoressa Coggi diceva che ci sono appunto i testimonial di ogni paese. Carolina è proprio la testimonial di oggi. Mi fantastico. Mi permetto si chiama come la mia bambina, Carolina. Ma che bambina. Mi permetto di aggiungere che se vuole lasciare il cognome, nome e l'indirizzo, volentieri gli spedirò il nostro spillino da ex fumatore, perché mi pare proprio che se lo sia meritato. Noi lo diamo un anno dallo stop fumo, qui è passato già più di un anno. Brava Carolina, complimenti, grazie per averci chiamato. Grazie a voi. Buona giornata. Paola dalla provincia di Monza Brianza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anch'io, come la ascoltatrice precedente, sono una ex e sono felice di esserlo già da 5 anni e più. E ho smesso anch'io senza aiuti esterni, senza supporti, anche se immagino servano, anzi. Certo. E mi ritengo fortunata, oltre che magari avere un carattere abbastanza, una volontà abbastanza forte. Senta Paola, che cosa le è costato di più da quando ha deciso di smettere e che cosa invece le ha aiutato? Dato che non è facile smettere di fumare, non vogliamo raccontarlo come una cosa così, una passeggiatina. No, ecco. Assolutamente. Per cui... Anche perché io dico spesso, faccio la battuta che si rimane purtroppo fumatori sempre dentro, sì. Anche se il gesto lo evito, la cosa la evito. La cosa che più mi è mancata tuttora è proprio il gesto. Gli psicologi andrebbero a nozze, nel senso che la consolazione, la coccola quando ci si sente magari soli, giù, tante piccole cose, quando ci si vuol prendere un momento per sé, ecco, è per quello che a volte non si sostituisce con caffè, cibo, cose, no? Sì. Ecco, quello manca un po' sempre. Però la cosa che si guadagna è nettamente superiore ed è intanto la soddisfazione di sé, proprio l'orgoglio di sé. E poi il respiro, il gusto delle cose, dei cibi, i profumi, gli odori, ma non si può spiegare quanto si guadagna su questo. Quanto fumava Paola? Anche il portafoglio, è un pacchetto circa. Un pacchetto circa. Non pochissimo. Paola, complimenti, è vero, la gestualità manca, dottor Boffi. Sì, è uno degli aspetti più importanti, ha ragione che il supporto psicologico può essere fondamentale. Nel nostro centro antifumo, sono orgoglioso di dirlo, ne abbiamo addirittura 3 di psicologhe e io mi trovo benissimo a lavorare insieme a loro. L'unione fa la forza anche quando si deve creare un aiuto concreto al fumatore per smettere di fumare, non solo farmacologicamente, non solo con presidi medici, ma anche psicologici, perché molte volte si dice nella vita: se sei bravo ce la fai da solo a risolvere un problema. Ecco, la mia opinione, non solo la mia, è che invece per smettere di fumare, se sei bravo, ti fai aiutare. Dottor Boffi, lei è stato di recente in Olanda ad un convegno che ha visto gli Uniti, al congresso europeo di pneumologia annuale, che eravamo 21.000 ad Amsterdam. 21.000, insomma, veramente. Abbiamo riempito la città. E, tra l'altro, glielo chiedo perché alcuni ascoltatori mi chiedono se possiamo parlare anche di sigarette, di sigari, di pipa. Questo mi chiede Luca, se possiamo metterli sullo stesso piano, ma c'è chi mi parla anche di marijuana, di narghilè, eccetera. Sì, sì. E voi so che ne avete parlato, perché chiacchierando con lei ho scoperto. Un po' perché eravamo in Olanda, quindi la patria del fumo, dei coffee shop. E iniziamo dai sigari e delle pipe. Sigari e pipe si sa che fanno male, fanno statisticamente più male alle alte vie aeree che alle basse vie aeree. Ci sono ancora tuttora non molti studi sul narghilè. Ecco, una cosa che ho scoperto è che il narghilè sta veramente invadendo anche il mercato occidentale, soprattutto tra i giovani, come modo di aggregazione. Di serate in compagnia, e ci sono ho visto uno studio di un collega libanese sulla forte incidenza della BPCO, della bronchite cronica ostruttiva perché da narghilè. Perché si fuma in un modo particolare, adesso non no, è che beh, dobbiamo... Narghilè comunque di solito tende a dare un po' meno dipendenza, però è quasi sempre un percorso, un passaggio poi verso il fumo di sigaretta. Mentre quello che è particolarmente dannoso come modo di fumare è stato segnalato il fumo della cannabis, una collega olandese che tra l'altro forse casualmente, forse no, si chiama Hendrix, come Jimmy, ha presentato uno studio molto interessante sui danni polmonari, la formazione di enfisema e quindi anche di bolle che si possono poi rompere nei polmoni visualizzate alle TAC e poi che possono dare appunto i cosiddetti pneumotoraci in quantità 5 volte superiore alla popolazione generale nei fumatori di marijuana, perché hanno un modo di fumare, di aspirare fin da giovani molto forte, con una manovra particolare che è chiusura delle vie aeree superiori che si chiama manovra di Valsalva, per cui più facilmente c'è questo intrappolamento dell'aria, questo air trapping, che può formare bolle e poi anche rottura di polmone. Quindi la marijuana non fa male solo al cervello, come ormai è noto da tutti, ma anche molto anche al polmone. Sì. 800 24 00 24, Barbara da Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza, io ho 42 anni, è da 12 anni che sono sposata con mio marito, 10 anni fa mio marito nel momento stesso ha detto io non fumo più, mi ha dato le sigarette e mi ha detto io non fumo più, basta. È da 10 anni che non fuma più e ha fatto 5 maratone, fa le mezze maratone, va a correre ed e sta bene. E senta, ma all'inizio, me lo dica lei, quando mio papà ha smesso di fumare, che era un accanito fumatore, mia mamma, sì, dato che era nervosissimo, mia mamma diceva senti, a questo punto è meglio che tu fumi, perché era veramente insopportabile. È vero, il suo marito com'era nei primi giorni da quando ha preso la decisione, quando ha iniziato a smettere di fumare, è vero che sono intrattabili? No, assolutamente, perché forse aveva anche un lavoro che non era d'ufficio e quindi è un lavoro che lo mantiene sempre, è sempre in piedi, cammina sempre dalla mattina alla sera e quindi magari si sfoga così, e in più la corsa, fare sport lo ha aiutato ancora di più. Quindi lei ha un marito che ha smesso di fumare, fa sport, quindi anche ha un fisico aitante, soprattutto Barbara evita di respirare il fumo passivo, che anche su questo dottor Boffi, noi abbiamo dedicato intere puntate. Grazie bene, a Barbara. Bene. Complimenti al marito. Un problema che hanno molte persone quando smettono di fumare è la paura di mettere su chili. Sì. E ci sono tante persone che dicono io non smetto perché poi chissà come divento. Allora io ho chiesto alla dottoressa Sara Farnetti, che è internista, nutrizionista all'Università Cattolica di Roma, di darci una mano. Dottoressa Farnetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Chi smette ingrassa è vero per tutti? C'è una sorta di predisposizione, è un'autosuggestione per cui uno si aspetta di ingrassare, per cui mangia un pochino di più. Che cosa allora, è? La nicotina di per sé, come sappiamo, attiva il sistema nervoso e in realtà stimola anche il metabolismo generale. Per fare un esempio, un fumatore di 10-12 sigarette al giorno consuma in più rispetto a una persona che non fuma circa 200 calorie. In realtà poi la nicotina è anche un anoressizzante, cioè ci aiuta a controllare meglio l'appetito. Detto questo, non è ragionevole credere che fumare però faccia dimagrire o che addirittura smettere significhi necessariamente aumentare di peso. Questo si verifica soltanto se l'alimentazione diventa eccessiva e come sostituto della sigaretta si scelgono rompifame, zuccherini. Perché il problema qual è? Uscire dal circolo vizioso del fumo e cadere nel circolo vizioso degli zuccheri. Allora assolutamente non cedere a snack tipo cracker, succhi di frutta, yogurt, bibite, cereali di diverso tipo, la pizza e il pane, quindi controllare gli zuccheri perché innescano appunto quella dipendenza poi che ci porta sicuramente ad ingrassare. Tuttavia, proprio perché la nicotina ci appaga, non eliminiamo totalmente pasta e riso, altrimenti smettere di fumare diventa ancora più difficile. Quindi controllare il quantitativo di zuccheri passi, ma sicuramente mantenere la pasta e il riso perché contengono il triptofano, quell'aminoacido precursore poi della serotonina, che è l'ormone della felicità e della sazietà. Ci sono alimenti che possiamo considerare contro l'astinenza. Ecco, ma se questo, dottoressa Farnetti, alimenti contro l'astinenza ce ne sono, la dottoressa Farnetti ce li presenterà. Dobbiamo andare però prima a sentire i mercati e il meteo, quindi un attimo di attenzione. 800 24 00 24, mi rivolgo a chi ce l'ha fatta, che cosa vi è costato e che cosa vi ha aiutato di più. Ritorniamo subito dopo insieme con la dottoressa Farnetti, il dottor Boffi e tanti altri esperti, perché ogni dottor Boffi, noi cerchiamo di smettere, quindi giustifichiamo, il fine giustifica i mezzi? Assolutamente sì. Essere e benessere. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? Ma più di uno su mille, dottor Boffi. Assolutamente. Sì, dai. Dottoressa Farnetti, facciamoci aiutare anche dai cibi, dagli alimenti che ci sostengono in questo passaggio così importante. Allora, sicuramente il desiderio di accendere una sigaretta dura solo pochi minuti, è in quel momento che dobbiamo intervenire con furbizia. Magari può bastare un infuso, una tisana calmante, considerando che la nicotina è una sostanza solubile in acqua, quindi viene smaltita anche attraverso l'urina, il sudore, e quindi in questi momenti è importante bere, ma bere non soltanto acqua, bere anche attraverso gli alimenti, quindi sicuramente, come tutti sappiamo, sgranocchiare il pinsimonio può essere un modo per intervenire proprio là dove c'è questa voglia che ci spinge a riprendere la sigaretta. Un antidoto può essere il kiwi, un alimento di stagione, uno spuntino, 3 kiwi al giorno, metà mattina, metà pomeriggio, anche prima di andare a letto, ci aiuta perché è ricco di vitamina C più dell'arancia, di ferro e di potassio, è un frutto poco zuccherino, quindi non ci fa ingrassare, ha un gran potere antiossidante e migliora anche l'allontanamento dei tossici a livello intestinale perché è lassativo. Ricordiamoci che se l'organismo si depura e lo fa in fretta, è più facile abbandonare la sigaretta che ha intossicato le nostre cellule, e il benessere è totale, non solo dei polmoni. Un'altra idea può essere quella di tenere a portata di mano delle olive, perché prendere l'oliva e sgranocchiarla è un po', può essere un sostituto invece di sgranocchiare un cracker, di prendere una caramella. E l'oliva in sé contiene la vitamina E, un forte antiossidante. Non dobbiamo aver paura dell'oliva che ci faccia ingrassare, perché ricordiamoci che gli alimenti portano informazioni ormonali prima che calorie, e l'oliva, in questo caso non contenendo zucchero, non crea un rialzo dell'insulina e quindi non ci fa entrare nel circolo vizioso degli zuccheri di cui abbiamo parlato prima. Fantastico, quindi verde oliva, verde kiwi, per tenere lontana la voglia di fumare. Vitamine, dottoressa Farnetti, sì, e poche calorie. Sempre. Vitamine sempre, tramite, ricordiamoci, le verdure crude, i pinsimoni, sempre magari rendiamoli più gustosi con una quota di olio. Il pinsimonio è proprio un'associazione meravigliosa di sostanze appunto antiossidanti come le vitamine e l'olio, che ci permette poi di assorbire queste stesse vitamine. E ricordiamoci che è un po' uno scambio. L'olio migliora l'assorbimento delle vitamine della verdura e la verdura migliora l'assorbimento di sostanze, in questo caso antitumorali, che contiene l'olio. Grazie dottoressa Farnetti per essere stata con noi, buona giornata. Buona giornata. Dottor Boffi? Sì, aggiungo che a livello psicologico meglio se sono alimenti che scrocchiano, mi dicono i fumatori, dalla frutta secca al cioccolato fondente, all'insalata, i pinsimoni appunto, perché questo combatte il craving. Spegnila è uno, tra l'altro è un libro che ha scritto il dottor Boffi insieme alla collega Donatella Barus, dove potete trovare molti suggerimenti per... Sì, perché le idee principali ce le hanno date i fumatori stessi, quindi è un libro di storie, di esperienze vissute realmente. Renato da Milano, Guido da Genova, Tommaso da Roma, facciamo una carrellata di contributi dei nostri ascoltatori, fumatori, ex fumatori, chissà. Renato, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Renato, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei, se mi abbassa la radio, così Carmelo sì. Lauricella, che è in regia alla parte tecnica, che ringrazio, non ci sgrida. Niente, io sono un ex fumatore. Un ex fumatore, perché ha ripreso? In quanto io avevo smesso per 3 anni, dal 93 al 96, e poi ho smesso ancora dal 2007 all'ultimo dell'anno del 2010, sì. 2009, insomma non riesco a superare i 3 anni. Ok. Comunque. Però bravo, Renato, no, perché lei prova, poi smette, non importa, no? Vabbè, non solo, si è danneggiato bravo. Meno in questi anni. Vede. Perché comunque ci sono studi che dimostrano che il danno cumulativo, quello che è peggiore. Per cui lui, avendo fumato meno in questo periodo, ha comunque meno rischi di malattia. Senta, ma Renato, lei ha capito perché riprende? Sono un aspirante ex. Lei per è una... Io ho ripreso ad andare in palestra appunto per la motivazione principale, cioè l'obiettivo principale è quello di smettere di fumare. Mm. Senta Renato, con il dottor Boffi abbiamo pensato di fare questa cosa qua, dato che molti ti stanno scrivendo anche via SMS, dare un appuntamento già subito oggi, dopo la diretta tra le 12 e le 12.30, il dottor Boffi può rispondere su Facebook e intrattenervi con suggerimenti, consigli, volentieri, eccetera. E poi se la cosa ci piace, magari potrebbe dare proprio una mano a Renato, e se la comunità cresce, potremmo magari pensare ai martedì un happy hour senza fumo da fare su Facebook e poi ci trasferiamo in strada. Insomma, da cosa nasce cosa? Intanto stiamo collegati. Renato ha bisogno di un aiuto, vuole spendere mezza promessa, perché così magari si sente più legato? Sì, per me tutto va bene, tutto quello che diciamo tende a così a migliorare, cioè a prepararsi per questa cosa. Attento perché Renato, attento perché il dottor Boffi l'aggancia subito. Dottor Boffi. Due cose dobbiamo cercare di essere bravi ad aiutarlo, a rismettere un'altra volta, perché non è detto che sia così facile anche questa volta come le volte prima. E poi soprattutto a capire le motivazioni, le cause delle ricadute, perché dopo 3 anni non è possibile che fosse ancora una sindrome di astinenza, quindi evidentemente in quei momenti lui non sapeva a chi rivolgersi, quindi cercheremo di farlo sentire meno solo. Allora Renata, appuntamento su Facebook tra le 12 e le 12.30 con il dottor Boffi, e anche naturalmente l'invito esteso a voi che ci ascoltate, e se poi la cosa ci piace vogliamo diventare proprio un gruppo di autoaiuto. In cui ci scambiamo suggerimenti, consigli, ci incitiamo, ce la facciamo, ricadiamo, facciamo questi happy hour senza fumo su Facebook e chissà mai, magari anche in dei posti in giro per l'Italia. Intanto Guido da Genova e Tommaso da Roma. Guido, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il programma, Nicoletta. Grazie Guido. Veramente un tema da trattare, ma non soltanto qua, bisognerebbe farlo a livello italiano e mondiale, perché fumare e le stupidità più grandi che ha creato l'uomo. Ha smesso Guido o non ha mai fumato? Ho fumato, ho 50 anni, ho fumato fino ai 44. Sì. Ho cresciuto i due figli più grandi, Maurizio e Gianfranco, sotto casa col fumo. Mi rendo conto che sono stato un padre irresponsabile. E un giorno eravamo in ferie con il piccolo Luigi che è nato. E mi dice papà, aveva 4-5 anni, gli piaceva molto il nuoto, e mi dice papà, perché non smetti di fumare e facciamo il nuoto insieme? Ma sai che ho smesso subito? Me ne sono reso conto di una grande verità che mi diceva un bambino di 5 anni. Io ho smesso di fumare e adesso faccio il nuoto con la mia famiglia. Fantastico Guido, ma che cos'è? C'è qualcosa che le è particolarmente pesato quando ha preso questa decisione? Mi crederai che alla fine, ne parliamo in casa, sì? È uscito questa teoria. Ho smesso di fumare grazie alla forza e volontà di mio figlio piccolo, perché lui che ha insistito. Ma veramente non ci ho ripensato mai più, non sono ingrappato. Vedi? Altro che coach. Tutto naturale, e vedo la gente fumare e sono molto contento perché i miei figli grandi non fumano più, cosa che facevano prima in casa. Grazie Guido, insomma una famiglia che ha smesso l'ha spenta. Spegnila tra l'altro il titolo del libro, che così rispondo a chi me lo sta chiedendo. Fumare è contagioso, ma anche smettere di fumare è contagioso, il nostro radioascoltatore l'ha dimostrato, ed è interessante quello che ha detto, che ricorda che già dopo 72 ore, cioè dopo 3 giorni, i bronchi si rilassano, il respiro diventa più facile e aumenta anche la capacità polmonare, quindi nuoti meglio. Allora, molti di voi mi stanno chiedendo, ma parlate anche di agopuntura, di ipnosi, di sigaretta elettronica? Sì, e poi lo faremo naturalmente anche su Facebook. E di sigaretta elettronica parliamo con la dottoressa Giuseppina Lamantia. Buongiorno, dottoressa Lamantia. Buongiorno a voi e grazie per questo invito e questa opportunità che ci date. Dottoressa Lamantia, la dottoressa Lamantia lavora all'OIEO, e dove si sta sperimentando insieme all'ospedale Monzino e al San Raffaele una sigaretta elettronica, devo dire una perché di sigaretta elettronica ce ne sono sostanzialmente di due tipi. Essere e benessere. Dottoressa Lamantia, intanto iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando. Sigarette elettroniche, ce ne sono sostanzialmente di due tipi, ci racconta? Cioè, sostanzialmente esiste la tifumo e quindi la sigaretta elettronica che non contiene nicotina e poi le sigarette elettroniche che invece contengono nicotina. Quello che si cerca di fare è dare un supporto su quella che è la manualità, la gestualità, con una parvenza di sigaretta, perché in realtà il fumatore aspira e quindi ha la suzione e contestualmente vede la fiammetta sulla punta della sigaretta e contestualmente espira il vapore acqueo. Quindi con la sigaretta che stiamo sperimentando abbiamo scelto latifumo proprio perché per evitare di entrare in tutta quella che è stata la problematica e warning dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibilità che fosse nociva la sigaretta elettronica. La sperimentazione è in corso, quindi non ci sono ancora dei dati. È proprio appena iniziata e in più finché non è chiuso lo studio non si possono analizzare i risultati e capire un pochino l'efficacia. In questo momento non si sa proprio nulla. Però abbiamo detto che voi la state valutando, la state studiando per testarne anche l'efficacia come strumento che possa in qualche modo aiutare la persona che vuole smettere, in supporto anche del counseling piuttosto che della terapia farmacologica, e che lo aiuti a superare quella difficoltà che molti fumatori quando decidono di smettere trovano, che manca il gesto, manca. Sì, assolutamente lì è una parte determinante. Quando il fumatore smette di fumare deve cambiare tante di quelle che sono le sue abitudini, è un cambiamento vero in quella che era la vita da fumatore in quella che sarà da non fumatore, e in questo passaggio poterlo supportare anche nei momenti in cui lui riconosce che ha come necessità, come difficoltà quella di riconoscere certi gesti, può avere lì uno spazio, utilizzare un presidio quale la sigaretta elettronica, che ha proprio questo fine. Io ringrazio la dottoressa Giuseppina Lamantia, vice direttore senior dell'unità di cardiologia e responsabile del centro antifumo IEO. Dottoressa Lamantia, quando sono pronti i dati noi siamo qua, mi raccomando. Molto volentieri. Mi è piaciuto quello. Certamente, buongiorno. Grazie. Gianfranco ci chiama da Milano, buongiorno Gianfranco. Buongiorno, io sono del 1948, classe del 48. Io mi ricordo che quando ho compiuto 18 anni, la sera festeggiamo il compleanno e mio padre fece il gesto, mi offrì la sigaretta e mi disse praticamente, ero entrato nell'età adulta, ecco. Sì. Io quindi sono nato con quella cultura. Sì. Da allora ho sempre fumato, sono tutti intervenuti tutti quanti i divieti che io condivido, sì, certo, perché però... per carità, non fumare in treno, non fumare in aereo, non fumare al cinema, non fumare al ristorante. Io mi ricordo i cinema nebbiosi. Anch'io me li ricordo, Gianfranco. Che puzzavano gli abiti, giustamente, eccetera. Però adesso con questi divieti ho... per un gioco forza ridotto il numero di sigarette. Quante ne fuma? 8-9 al giorno. Dottor Boffi, 8-9 benino, no? 8-9, beh sì, ha ridotto. Vede, è ridotto e anche a volte vado anche sotto, però Gianfranco non esageri di levarmi il gusto della sigaretta post prandium o dopo cena, insomma, un fumatore è diventato grande con la sigaretta, esatto, è stato, con quella cultura, con quella cultura, con quella cultura. Dottor adesso Boffi. L'ho sentito attentamente i dati della dottoressa Lamantia, non ci sono dati sicuri. Io non so quanto mi resta da vivere, ma no, Gianfranco, adesso nessuno lo sa, questo non lo sappiamo, insomma cerchiamo di vivere bene, che dice? Però magari questi piccoli piaceri che mi dà la sigaretta in certe fasi della giornata è durissima, e poi uno dice, dottor Boffi, questo è un osso duro, Gianfranco è un osso duro, ma intanto che lei ci pensa, perché lei spesso cerca di convincere anche le persone che dicono, insomma, si vive una volta sola e bisogna fare tutte sempre delle rinunce. Io la sigaretta, magari invece che 10 cerco di fumarne 5, però me la tengo. Faccio male? Ah beh, può essere un'impresa impegnativa cercare di aiutare Gianfranco, però il nostro dovere di medici è quello di aiutare anche queste persone qua che hanno nella sigaretta l'amico forse da più tempo della loro vita. Vediamo se potrebbe aiutarlo il dottor Matteo Ameglio, che è responsabile del servizio tossicodipendente del centro antifumo di Poggi Bonsi, Siena. Buongiorno dottor Ameglio. Dottora Meglio, nel vostro centro voi utilizzate anche l'ipnosi. Sì, è vero. Ci tengo a precisare che lo utilizziamo affiancandolo a quelle che sono gli interventi basati sulle evidenze, quindi il counseling, il trattamento farmacologico. L'ipnosi penso che possa senz'altro aiutare, affiancando allo sforzo che inoltre deve comunque fare la persona, perché talvolta qualcuno cerca la bacchetta magica sperando che ci sia e non c'è, però può essere un aiuto, perché può aiutare per esempio a lavorare sull'aspetto del rilassamento e la gestione dello stress, per affrontare, lavorare sulla motivazione che è spesso ambivalente anche nelle persone decise. Ci sono momenti di ambivalenza come per tutte le dipendenze, lavorare per rinforzare la volontà, per lavorare su quelli che sono i vantaggi, anche si fanno anche dei trattamenti di tipo avversivante, cioè cosa fare vuol dire? Sì. Avversivante vuol dire far vivere il rapporto con la sigaretta in un modo negativo. Quindi cioè per dire mi fa venire nausea, cose che schifezza, puzzo. Sì, senta, quante sedute è necessario fare, soprattutto quando si parla di ipnosi? Noi pensiamo ai film in cui si vedeva, no, la persona completamente in balia, stregata quasi dalla persona che... No, ecco, cioè, è tutta un'altra storia, vero dottore? È tutta un'altra storia, è qualcosa che viene costruito insieme fra la persona che viene ipnotizzata e chi la ipnotizza. È uno stato mentale non ordinario, che comunque non è così diverso da alcune situazioni nelle quali nella vita quotidiana si resta assorti talvolta. Non è uno stato, non è il sonno, ma si è coscienti di ciò che succede intorno. Quindi... La persona che viene ipnotizzata deve essere disponibile a seguire attraverso la sua concentrazione in ciò che viene detto, gli input che vengono da chi la ipnotizza, e a utilizzare l'immaginazione. Se è disponibile a fare questo, non tutti sono fra l'altro adatti, diciamo, si dice ci sia anche un 25% della popolazione che sia molto meno adatto a qualcuno. Quindi per però ci deve essere da parte della persona il desiderio almeno di provarci, non è che io mi siedo, vengo da lei, lei mi ipnotizza e io esco e non fumo più. Vero? No, assolutamente. Assolutamente, su questo ci tenevo. Ma io voglio leggervi, e mi fa veramente un piacere, Carlo da Roma ci manda questo messaggio. Nicoletta, mia moglie mi chiede da anni di smettere di fumare. Oggi, seguendo la vostra trasmissione, lei è una simpaticissima persona che tra l'altro ha lo stesso nome di mia moglie, ho deciso, smetto ora. Nei prossimi mesi prendo l'impegno con un SMS periodico di informarvi sull'andamento. Butto il pacchetto ora, non dal finestrino ma in un cassonetto. Grazie Carlo da Roma. Allora Carlo, pressato da due Nicolette e con l'aiuto del dottor Boffi, che fortuna, ecco, ha deciso oggi di smettere di fumare. La nostra Bravo. Pagina di Facebook è aperta perché tutti noi facciamo il tifo per Carlo. Se volete seguirlo, andate subito sulla nostra pagina Facebook. Il dottor Boffi risponde, scrive: Carlo, complimenti, mi onora. Grazie a voi per averci seguito, per averci scritto, chiamato. Il dottor Boffi, per il tempo che ci dedica e la grazie passione. A voi, grazie a voi. Si sente anche la passione dei nostri esperti. Io vi appuntamento a domani come sempre e vi chiedo di scaricarci. Ricordatevi il nostro Daily Lab. Io saluto Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica come sempre preziosissima Laura Vanossi in redazione. Ci sentiamo domani. Essere e benessere.